Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Buongiorno a tutti e buona domenica. Hello, hello, buona domenica, che bello, meraviglia, si va, si allungano le giornate sempre meglio. Allora, ci stiamo avvicinando piano piano alla Pasqua, eh. Io vorrei preparare anche i nostri... grandi riflessioni sulla Pasqua, visto che siamo amanti degli animali, il mondo dalla prospettiva del cane, ma non soltanto del cane, no? Anche dalla prospettiva dell'agnello, per esempio. dei tacchini, delle galline, dei vermi, quelli che attaccano agli ami per far abboccare un pesce. Eh, insomma, dobbiamo quantomeno interrogarci su questa cosa. Può sembrare assurdo, perché noi semplicemente non ci interroghiamo su queste cose qua, eppure tutto è parte del creato. Ne parleremo oggi con padre Guidalberto Bormolini, perché qualsiasi cosa noi facciamo a questa terra la facciamo in realtà a noi stessi. Questo è quello che dovremmo giungere a parlare. Quando diventiamo saggi, quando diventiamo intelligenti, ci rendiamo conto che i nostri problemi che abbiamo di economia, politica, eccetera, il fatto di riuscire di focalizzarci sull'arraffare tutto. Però noi continuiamo con l'articolo, quello di Focus, che ci è piaciuto tanto, che sono le 11 cose che danno fastidio ai cani, ecco, e che forse noi facciamo e che danno fastidio ai cani. Noi le facciamo magari in modo bonario, sì, però forse danno fastidio ai cani. Sentiamo quali sono quelle di cui abbiamo già parlato. Vi ricordo che potete trovare l'approfondimento per ognuno di questi punti nei nostri podcast sul sito di Radio 24. Quindi il primo punto era usare le parole più che il linguaggio del corpo. Usare le parole più che... ognuno di questi punti l'abbiamo correlato anche alla comunicazione umana e all'interazione tra esseri umani. Abbracciarlo forte. Attenzione. Terzo punto, fargli pat pat sulla testa. Non va mica bene. Quarto punto, guardarlo fisso negli occhi. Attenzione, perché questo amplifica le emozioni. Quindi se noi siamo in un bello stato con il nostro cane, ci vogliamo bene, in quel momento ci si guarda negli occhi, non c'è nulla da temere. Ma se siamo arrabbiati, se non conosciamo un cane, siamo diffidenti, guardarlo negli occhi potrebbe rappresentare invece un problema per lui. Quinto punto, vivere senza regole. Attenzione, non le regole sono necessarie, l'importante è fissarle bene, con gentilezza e coerenza. Sesto punto, obbligarlo a interagire con cani che non gli piacciono. Ecco, occhio alle recche cani, a sovraffollamento anche in casa, l'adozione di un nuovo cane, l'arrivo di un bambino, attenzione a queste cose. Settimo punto, portarlo fuori solo per far pipì. Eh no, il cane deve uscire anche per fare altro, no? Annusare, socializzare, via dicendo. Ottavo punto, tenere il guinzaglio troppo stretto, troppo corto. Ah, meglio il guinzaglio lungo, meglio pettorina. Nono punto, avere un atteggiamento negativo. Mm-hmm. Quindi essere attenti alla nostra stessa felicità, abbiamo detto la puntata scorsa, no? Sì. È importante essere leader emotivi, sapere come renderci felici, perché le nostre emozioni si propagano nell'ambiente attorno a noi. Siamo animali sociali, il cane lo è, quindi assorbe le nostre stesse emozioni. E finalmente il decimo punto, che è fantastico, è essere noiosi. Aia. Sì, ma infatti, perché provate a immaginare di essere costretti a presenziare a una noiosissima conversazione tra adulti, per esempio, no? Senza avere alcuna via d'uscita. Uh-huh. È esattamente quello che prova il cane quando, dopo che ci ha aspettato, poverino, tutto il giorno, torniamo a casa, ci lasciamo risucchiare dalla routine delle cose da sbrigare. Quindi fargli sgranchire le zampe all'aria aperta è un buon modo per farlo sfogare, per esempio. Ma è bene prevedere alcune attività divertenti che possa fare anche a casa. Nascondergli il suo gioco preferito in diversi luoghi della casa, invitarlo a trovarlo insieme a noi, oppure organizzargli una piccola caccia al tesoro nascondendo ricompense profumate in alcune scatole. E quindi sono attività stimolanti che possono rompere la noia e intrattenere il nostro cane. Benissimo. Sai qual è l'attività più divertente per i cani e per gli esseri umani? La dovrei sapere? No, è una cosa comune, però ci si pensa poco. Diciamo che ce se ne dimentica man mano che si cresce. Rifammi la domanda? Qual è l'attività che rende più divertente per cani ed esseri umani? Ma secondo me è quella di buttarsi sul letto, giocare, sleccacciarsi, cioè loro ci leccano dappertutto. Quella è sempre un po' affetto, no. Però hai detto la parolina chiave. Buttarsi sul letto? No. Giocare. Ah, giocare! Il gioco è innanzitutto una palestra di vita, cioè ti insegna delle cose, sì. ma oltre a questa cosa qua svolge l'importante funzione di farti stare bene, di essere di farti sentire felice. È una fonte di divertimento, quindi il gioco è una di quelle attività che noi possiamo riscoprire anche attraverso i cani. Ce le dimentichiamo man mano che siamo grandi, ma tu sai che nei miei corsi io spesso faccio giocare le persone. Assolutamente. E si divertono come matti e si dicono: ma perché ho smesso? Sì. Visto che sono ancora in grado di giocare, perché ho smesso di farlo? Giocare, infatti, significa, il cane ci invita da adulti ancora a giocare a rincorrersi. Sì. Cioè è una roba che chi non è il cane non vive più, cioè si dimentica quando è ragazzino e non lo fa più fino a quando muore. giocare a rincorrersi è una di quelle cose che il cane ti può invitare a farlo. E io vi dico, quando io dico a chi sta facendo il corso per educatori, spesso sono anche ragazzi giovani, vengono anche ventenni, 25, 30, e dico, gioca a rincorrerti col tuo cane, invece di pensare a lanciare la pallina, per esempio, o fare la ricerca, che vanno bene, sono attività per carità sacrosante, però fai in modo di prendere la pallina e metterti a correre come se tu, sai, presente il giocatore di rugby che prende la palla e si mette, e fatti rincorrere dal cane. Fai, quando il cane ha preso la pallina, rincorrilo tu, e qua, anche se non c'è di mezzo la pallina, gioca a rincorrerti, che è una cosa che i cani fanno spessissimo tra di loro. Io gioco a nascondino, anche a nascondino, però mi raccomando, uscite, perché nascondino è una cosa che poi spesso si tende a fare in casa. E beh, come faccio a fare nascondino fuori? Beh, ti puoi nascondere dietro un cespuglio o dietro un albero, lo si può fare ugualmente. Cioè, tu sei in grado di tra virgolette perdere il tuo cane, di far no. Con il tuo cane, ecco, vedi. Vabbè, ho capito, no, perché io voglio adesso che le persone escano di casa, non state in casa a giocare. Il gioco è qualcosa che va relegato soprattutto all'attività all'aperto. Il cane è un'occasione per stare all'aria aperta, dove noi prendiamo vitamina B. Allora non dobbiamo essere noiosi, il cane ci insegna a fare questo, e possiamo riscoprire la gioia di giocare grazie alla relazione con il nostro cane, che ci richiama a fare questo. Quando il nostro cane ci guarda con quell'aria di attesa, come per dire, beh, che facciamo? Basta coccole, che se no sempre queste coccole qua, le carezze eccetera. Giocaci col cane, portalo fuori, fai delle attività cooperative, vai da un educatore cinofilo e fatti insegnare come si fa ricerca, che il cane è sorprendente quando fa ricerca, tu dici è un mondo, no, queste cose qua. Significa dare maggiore fiducia al cane, laddove io ti ho guidato finora, tu ti devi fidare di me. Durante la ricerca sono io che mi devo fidare del cane. Quindi insomma, giocare, fare ricerca assieme, cooperare, evita di essere noiosi. Adesso quando torniamo a casa, amore, facciamo il cerca io e te, eh? Con questa roba mi preoccupa un attimo. Scriveteci, c'è un messaggio subliminale. Chi può dirlo? Scriveteci a chiedimi se sono felice, @radio24.it. Ora il traffico è fra... Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ed ecco a voi, signore e signori, questa domenica Tullio Solenghi! Ma buongiorno! Buongiorno! Che sigla, eh? Mamma mia, ragazzi, roba addirittura da... alla DiCaprio proprio, esatto, and the Oscar goes to, siamo freschi di Oscar, insomma, quindi sì, infatti. Bene, onorati di averti. Grazie, con noi. Grazie, buongiorno a voi. Io devo assolutamente dire a tutta l'Italia una cosa, cioè noi abbiamo passato mesi, forse anche qualche anno, Tullio, a fare giochi demenziali ma molto divertenti a casa. Sì, perché voi eravate abbonati, tu e tua sorella eravate abbonati al trio, nel senso che noi eravamo al Nuovo di Milano e voi una sera sì e una sera sì vedevate lo spettacolo del trio. Registravamo e poi tutto. Facevamo, tiravamo l'alba con appunto questi giochi. Tipo l'assassino, sai quello della carta che uno con gli occhi faceva un occhiolino, doveva... Sì, no, la camiciaia, insomma ne abbiamo fatti un sacco, sì. E c'era anche Biagio Antonacci all'inizio della sua carriera. Sì, questo ragazzo che ogni tanto strimpellava la chitarra, e io gli suggerii, guarda, apri un negozio da ferramenta, invece no, ha voluto fare il cantante, ma sai, vabbè, che te devo dire? Io le indicazioni gliele avevo date, poi lui è peggio per lui, che te devo dire? Comunque ti dico in diretta che io ho dei filmini, pochi, ma ho dei filmati di quelle serate lì dove giocavamo anche a visual game, di fare i disegnini, bisogna indovinare che disegnare, cioè veramente una roba fantastica. Vabbè, dobbiamo... allora me li farai avere. Assolutamente sì. Detto ciò, ti abbiamo chiamato perché sappiamo che anche tu sei uno sensibile, ovviamente al resto della vita, non solamente degli umani ma anche degli animali, del mondo animale, dei cani, degli animali, e talmente attento che hai cambiato anche le tue abitudini alimentari. Sì, io da 5 anni sono vegetariano, vegetariano proprio per scelta etica, poi diventa anche una scelta salutare perché chiaramente se ne giova anche alla salute, come dice ben giustamente il professor Veronesi, però la partenza è stata etica, quindi di evitare... Quindi che ognuno fa al suo percorso, no? Abbiamo intervistato settimana scorsa Enrico Montesano, che ci ha detto invece il contrario, cioè lui è partito da una scelta di salute e poi dice però poi c'è stata anche l'etica, no? Certo, e invece vedi, ognuno ha il proprio percorso perché le cose sono legate. Sì, ma l'importante è arrivare, poi se uno passa da Vicolo Stretto invece da, che da Piazza della Vittoria, per dirla alla Monopoli, va bene lo stesso. Sì, certo, l'importante è dove, si, dove porta. Ma che cos'è che ti ha fatto? C'è stato un episodio in particolare o qualcosa che ti ha fatto... Direi che insomma ero già sulla buona strada. L'episodio scatenante è stato dovuto alla, a quello che io ho considerato, io ho due figlie femmine, per alcuni anni ho avuto un figlio maschio che era questo Labrador, amore, che si chiamava Joker, eh? E che ah, mi ha fatto compagnia per 12 anni, mi ha fatto compagnia vuol dire che mi seguiva in tournée, ah, sì? Dormiva in camerino, mi aspettava, veniva al ristorante, agli alberghi, è stato... Cioè chi non ha gli animali non sa che non può, no, sì, le diventano dei veri compagni di viaggio, dei compagni di vita, ecco. Sì, sì, infatti. E, no, io lo racconto sempre, una volta eravamo in autostrada, non so se all'altezza di Cremona, mi pare, c'era nevischio, c'era un freddo becco, e io scendo dalla macchina per andare al grill dell'autostrada a mangiare qualcosa, scendo e attaccato a noi, parcheggiato accanto a noi c'era un camion con gli animali, oddio, cioè con i maiali destinati ovviamente al, al macello, e scendiamo e sento queste urla lancinanti, queste, capirai, stipati nel gelo del coso, pronti per essere macellati, e io ho visto l'espressione del mio cane che li ha guardati, mi ha guardato e mi parlava, e sostengo che mi parlava, sono pronto a dichiararlo anche davanti a uno psichiatra eccetera, mi parlava, e il suo sguardo voleva dire: ma loro cosa hanno fatto di male rispetto a me? Cioè io sono sulla tua macchina, bello, seduto, comodo, mi porti addirittura al grill con te mentre mangi eccetera, e questi li vanno a macellare. E mi è venuto un attimo di, insomma, di magone, e ho detto vabbè, basta, basta. Beh, mi sono fantastico, rotto i coglioni di uccidere degli animali per mangiarli quando puoi mangiare tranquillamente, sì, i cibi vegetali. La riflessione che potrebbe nascere qui, no, da parte di chi ci ascolta, è effettivamente: qual è la differenza tra un maiale e un cane? Perché il cane, tutti quanti dicono, non va mangiato, ma sei matta? Io ricordo anche in Rai che uno è stato cacciato una volta per aver detto come si, si fa il gatto, no? Come si deve cucinare il gatto. Sì, sì, Perché? Perché se questo invece è il maiale, no? Cioè la riflessione deve nascere, perché effettivamente non ci sono differenze sostanziali. Cioè soffre, gioisce. Se pensi che ci sono nazioni intere che si bloccano per una balena spiaggiata e dietro l'angolo facciamo strage di tonni, allora mi viene da pensare che ci sono animali di serie A e di serie, certo, B, e allora mi vengono in mente tempi bui in cui nell'umanità c'erano gli ariani che erano di serie A e gli ebrei di serie B. Sì, adesso, certo, non voglio fare paragoni, però questa... Cioè, comunque in sottofondo questa classifica, ma questa... guarda che i filosofi dicono esattamente quello che tu stai dicendo, cioè si chiama specismo questa cosa qui, sì, sì, sì, e certo, ha la stessa origine, esatto, quando, cioè il sessismo, il razzismo e lo specismo hanno alla base la stessa origine, lo stesso, come si può dire, errore, no? Cioè una divisione tra quello che sono io e il uno mio mondo e gli, insomma, altri. Quello che non riguarda me è inferiore. Sì, infatti. Per cui, sì, io ti ripeto, è stata una molla che ha, ha avuto gioco facile, perché io già da tempo lo volevo diventare. Perché tu hai tua moglie, no? Che è attenta... Mia moglie addirittura poi è vegana crudista. Mia moglie è chef crudista. Ah, è chef crudista. Fantastico. Quando ho saputo crudista, perché chi viene da fuori, chi viene dal resto del mondo, dice crudismo, cosa fai? Tutto il giorno, dalla mattina alla sera, con le radici e con le, e con le fave, eccetera. E invece ci sono delle, dei piatti crudisti che sono straordinari. Per esempio? Per esempio? La maionese di lupini. Ecco, che... Ma oppure... ne voglio una subito. No, una cosa... straordinaria, veramente straordinaria. Sì, sì, ma... E quindi diciamo che il percorso familiare ha poi trovato, cioè voglio dire, mia moglie mi ha molto aiutato anche in questo. Le figlie sono tendenzialmente anche loro vegetariane, quindi insomma è un orientamento familiare a questo. Sì, punto. Ma guarda, splendido. Io dico sempre che ci vuole, in realtà quello che vorremmo fare noi è fare informazione, una volta che poi uno sa che cosa comporta anche mangiare un alimento piuttosto che un altro, cioè per esempio sappiamo che se ti sfondi di cioccolato, di patatine fritte, di Coca-Cola, bene non fa mangiare, certo, indipendentemente che ci sia un animale piuttosto che non, perché c'è anche un aspetto proprio salutare, la carne, certo, così, certo, come allevata oggi fa male, perché l'animale sprigiona delle tossine per la paura, per lo stress, ma per l'ansia, per il dolore, ovvio, che noi poi dopo ci mangiamo, certo, e quindi sai, non è che, insomma, detto questo sono contenta di questa tua testimonianza, perché secondo me serve sempre sentire e seguire anche gli esempi e le storie raccontate da altri, no? Sì, ti ripeto, a me poi io non mi sono avvicinato veramente in punta di piedi, perché di solito quando uno pensa a vegetariani, vegani, eccetera, pensa a delle comunità tipo gli Amish, no? Sì, che non vedono il resto del mondo, sì, che si vestono con abiti. Ma quelli stanno meglio di noi. Sì, con le donne tutte cozze, gli uomini tutti un po' rincoglioniti, vestiti tutti grigi, con degli abiti un po' da old farm, no? E invece no, anche perché i cibi poi sono, io voglio dire che sono ligure, ma ci sono dei piatti liguri meravigliosi che sono vegetariani, vegani. Non parliamo di tutte le paste, parliamo del pesto. Ma poi scusami, ma lo famoso spaghetto aglio, olio e pomodoro, basilico, è vegano, cioè voglio dire. Assolutamente, è vegano. Come la torta farinata a Genova, o polupur, petun, eccetera. Quindi in Toscana non parliamo poi di pappa al pomodoro. Pappa al pomodoro, la ribollita. Quando fanno l'elenco, pensate che i vegani mangiano cose tipo seitan, tipo tofu, tipo quinoa. No, i vegani mangiano tranquillamente la pappa al pomodoro o la ribollita toscana, o il polpettone genovese, o le trenette al pesto genovesi. Quindi spesso si fa anche un po', voglio dire, della cattiva informazione o della informazione mirata, perché così per ridicolizzarci, ma noi ci ridiamo su e andiamo avanti imperterriti per la nostra strada, giusto? Ognuno deve fare. Senti, Tullio, intanto grazie, però volevo sapere cosa stai facendo tu in questo periodo, sei in teatro, così almeno ti veniamo a vedere. Sì, dunque, in questo periodo io sto facendo con Massimo D'Apporto una commedia che si chiama Quei Due, che è un vecchio testo, Il Sottoscala, da cui fu fatto anche un film con Richard Burton e Rex Harrison. Sì. E praticamente è una storia omosessuale. La storia di due barbieri nella Londra a fine anni 60. Senti, Tullio, spero di rivederti presto. Saluta tua moglie intanto anche da parte nostra, la grande chef. Ti voglio solo ricordare che adesso sto andando a fare una foto con un agnellino. Ah, ecco, bravo, ci dovevi raccontare di questa cosa qui, mannaggia. Sì, siccome ne parliamo Marco tanto Biondi, nelle prossime che puntate. Diciamo uno degli ispiratori di Green Please, che sarebbe una sorta di fattorie che raccolgono gli animali che erano stati destinati al macello e li salvano, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione pasquale, perché una delle altre aberrazioni che dicevamo era quella di far vedere, far giocare il bimbo con l'agnellino quando magari si fa la pubblicità di un capo di lana, eccetera, e poi lo stesso agnellino viene squartato per farlo diventare il capretto De Pasqua, l'abbacchio pasquale, e quindi faccio una foto con un agnellino. Bravo, noi ne abbiamo parlato anche sotto il profilo cristiano, e Gesù Cristo era l'agnello pasquale, non bisognava andare a squartare l'agnello. Quindi approfondiremo di questa iniziativa nelle prossime puntate. Intanto grazie Tullio Solenghi di essere stato con noi. Grazie a voi. Ciao Tullio, grazie. Un bacione grande. Grazie. Anche. Sì, ciao. Assolutamente sì. Ciao ciao. State ascoltando un programma offerto da Adoc Day by Day, il buono di ogni giorno per cani e gatti. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E non solo, perché abbiamo detto all'inizio che ci piaceva iniziare a preparare la gente a si avvicina a Pasqua. Esatto, prepararsi proprio, come si dice, col cuore, con lo spirito, con l'anima, a quello che è il significato della Pasqua. Benissimo. Poi per i allora, cristiani. E allora ne approfittiamo, cioè da cristiani ci dobbiamo porre delle domande. Esatto. Una di queste domande era, ma per essere davvero cristiano è necessario che io ammazzo l'agnello a Pasqua? Allora, allora abbiamo con noi un amico ormai di Radio 24, perché l'abbiamo sentito altre volte, ed è padre Guidalberto Bormolini. Buongiorno a voi, Guidalberto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Guidalberto, amico nostro, anche perché io sono felicissima di avere te come amico, perché mi stai aprendo ancora di più, come si dice, veramente il cuore su tanti temi, come per esempio quello che trattiamo oggi. Eh sì, quindi noi ci siamo chiesti, no, io e Rosita, ma Pasqua bisogna mangiare l'agnello, sacrificare l'agnello, ma ha davvero delle origini cristiane? Perché molti cristiani magari si fanno pure lo scrupolo, dice, ma si fa così. E allora ci siamo detti, perché non lo chiediamo a Guidalberto, che è la persona più indicata, che ha scritto I Santi e gli Animali, no? Queste cose qui, che ci dici da questo punto di vista? Allora, c'è una tradizione ebraica indiscutibile, ha un suo significato simbolico all'interno dell'Antico Testamento, però se parliamo di tradizione cristiana sicuramente si può affermare che non è una celebrazione della Pasqua legata al sacrificio dell'agnello, perché è inequivocabile che l'agnello per un cristiano è Cristo stesso, quindi quindi al contrario, esattamente, per cui questa tradizione che magari qualcuno mantiene come qualcosa di folcloristico, ma inutilmente crudele perché non ha nessun significato cristiano, non ha un fondamento rispetto alla piena tradizione cristiana. C'è qualcuno che si è pronunciato ufficialmente fra le varie cariche ecclesiastiche su questo punto, su questo tema? Magari allora, non ce n'è bisogno, sì, però. Sì, ma c'è un'interessantissima omelia di Papa Benedetto XVI, Papa Ratzinger, come precedentemente il Cardinale Ratzinger ha recitato questa bellissima omelia nella messa della Cena del Signore nel 2007, in cui conferma, posso dire proprio le testuali parole: egli però ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, probabilmente secondo il calendario di Qumran, la comunità che si pensa sia Siena, quindi almeno un giorno prima, e l'ha celebrata senza agnello, come la comunità di Qumran, che non riconosceva il Tempio di Erode, era in attesa del nuovo Tempio. Gesù dunque ha celebrato la Pasqua senza agnello, in luogo dell'agnello ha donato se stesso, il suo corpo e il suo sangue. Sono le parole di Papa. Fantastico. Beh, fantastico, infatti. Allora com'è che ti spieghi che però... La tradizione ebraica che è arrivata fino ad oggi, probabilmente ci sono tanti agnelli che nascono e quindi fanno mattanza. Sono risvolti più popolari, perché qui insomma, si parla di spiritualità, e la posizione espressa da Papa Benedetto XVI è inequivocabile, anche perché poi il collegamento con le abitudini della comunità essena, probabilmente di Qumran, prevedevano un sacrificio incruento per la celebrazione pasquale. Quindi comunque ci sono due cose che lo confermano: che gli esseni ordinariamente non facevano il sacrificio cruento, che ha celebrato la Pasqua anticipata, perché infatti lui a Pasqua è risorto, quindi la cena pasquale era anticipata, e l'agnello era lui. Era lui stesso. Senti Guido Alberto, c'è questo libro che tu hai scritto che si chiama I vegetariani nelle tradizioni spirituali, no? Edito da Il Leone Verde. Sì. E io ho cominciato a leggere, è molto interessante. Puoi dirci in sintesi la tesi che sostiene questo libro? Mi sembra che al centro di una certa elevazione spirituale, cioè di una certa ascesi, ci sia non mangiare carne e non mangiare gli animali. Nella tradizione cristiana c'è sempre stata la convinzione che l'astinenza dalla carne, così chiamata nel cristianesimo, quindi una dieta vegetariana, è uno strumento di perfezione spirituale. Per cui c'è stato anche un grande dibattito nell'antichità tra chi sosteneva il contrario, e San Girolamo ha scritto un libretto, Adversus Iovinianum, in cui sostiene con forza la tesi che la dieta vegetariana è proposta nel cristianesimo come strumento di perfezione di vita, quindi ha tanti risvolti fisici, psichici e spirituali. Adesso saprò che cosa rispondere a tutti quelli che mi dicono: ma è Pasqua, l'agnello, lo dice Gesù, sai, il Vangelo, bisogna sacrificare l'agnello, non ci hanno capito un cavolo. Ma anche perché mi sembra, invece nell'altro tuo libro, I Santi e gli Animali, tu dici, noi dobbiamo vivere la creazione come fosse il corpo di Cristo, ho capito bene? Certo. Allora, ci sono alcuni padri che sostengono che Cristo, incarnandosi nell'essere umano, essendo l'essere umano nella visione dei padri della Chiesa, una sorta di microcosmo, per cui attraverso di lui, quindi mediato dall'incarnazione, Cristo raggiunge tutta la creazione. Certo. E nella lettera di Paolo si dice proprio espressamente a questo riguardo che tutta la creazione geme nelle doglie di un parto, per cui la santificazione dell'essere umano, secondo i padri, comporterà in qualche modo una santificazione di tutta la creazione. Però perché, vedi, a volte allora mi domando perché quando uno magari va a messa, la predica, nelle prediche che mi è capitato di sentire nella mia vita, non è mai venuto fuori questo aspetto? Ma perché è poco noto, ci sono delle cose che si perdono nella storia. Il mio stesso professore, quando ho discusso la tesi sull'astinenza della carne nella licenza docendi, l'abilitazione all'insegnamento teologico, mi era stupito, e a un certo punto voleva un po' dibattere, un professore stimatissimo e molto in gamba, però si è fermato e ha detto: ma qui c'è il consenso, un patron, cioè tutti i padri dicono questa cosa, quindi non c'è da dibattere. Contrario, no, ecco, è quasi mettersi fuori dalla tradizione cristiana. A me piacerebbe creare un dibattito, poi, perché spesso ci dicono che qui chiedimi se sono felice, noi non facciamo contraddittorio, ma noi chiediamo, diciamo a tutti di fare, cioè di scriverci. Volete controbattere a quello che diciamo noi? Noi siamo apertissimi al contraddittorio. Ah, assolutamente, anzi, scriveteci. Ma ben venga, cioè, diamo voce a chi dice il contrario. Esatto, ma la diamo veramente volentieri, perché è solamente, credo, nel confronto che si possono capire sempre meglio le cose, no? E poi di base quello che a me preme fare facendo lavorando queste domeniche in radio è informare, poi ognuno facesse quello che vuole di quello che ti do. Io ti do uno strumento, poi tu fanno l'uso che pensi meglio secondo la tua coscienza, no? Sai perché ti dico questo, Guido Alberto? Perché ovviamente si cerca sempre di sbugerare quello che diciamo noi, cercando anche invece di portare persone, vedi, tipo te, che ci portano dati alla mano, fatti, scritti, persone. Beh, non sempre, competenti. Guarda che, cioè, il fatto che ci sia un aumento così considerevole di persone vegetariane, per esempio, non sempre cosa? Non sempre, certo, ci cercano di sbugiardarci. Ah, sì, anzi, certo, anzi, sì, stiamo, certo, vivendo la quella sensibilità in ambito cristiano è cresciutissima. Comunque c'è un documento della Pontificia Commissione Biblica, uh-huh, sulle radici bibliche dell'agire cristiano, quindi il titolo è anche in equivocabile. Ah, bello. Radici bibliche dell'agire cristiano. Aspetta, me lo scrivo. Che nel capitolo 1, paragrafo 1, dice proprio: se la coppia prototipo, quindi Adamo ed Eva, prima del peccato, si vede affidate quattro consegne: essere fecondi, moltiplicarsi, riempire la terra, e le assegna un regime vegetariano. Ah, bello. Figurati. Lo dice, lo ricorda proprio, perché è inequivocabile, in Genesi 1:28, no? Per cui questo documento sulle radici bibliche dell'agire cristiano, c'è proprio questa, è molto interessante, chiara, sì, perché all'origine c'era questo, quindi nel progetto originario di Dio c'era questo. Poi c'è questa, anche nel Vangelo si dice: vi fu detto per la durezza dei vostri cuori, però ora io vi dico. Quindi c'è una maturazione dell'umanità. Sì, all'inizio, sì, sì, quelle cose non le capiva, ma adesso l'umanità è evoluta con una sensibilità che, alla luce del Vangelo, ci può riportare al progetto originario di Dio, che prevedeva la vita. Ecco, questo è quello che io sento oggi. C'è una sensibilità crescente. Sì, è vero. C'è una sensibilità crescente. È vero che qualcuno si scaglia contro, però, come diceva Schopenhauer, no, dobbiamo attraversare tre fasi, no? La verità attraversa queste tre fasi, che la prima è, viene ridicolizzata la cosa, quindi si prende un po' in giro, poi viene fortemente contestata, e poi infine data per scontata addirittura. Ma sì, ma è, cioè, è una vita che diciamo tutti che bisogna essere, per confondere, no? Solo però che... è ovvio che una maggiore sensibilità presuppone anche il fatto che tu ti interroghi su che cosa sta accadendo in quest'altro essere vivente, che non essere senziente. Senziente nel senso che prova emozioni, sente. E la cosa che diceva prima Guido Alberto a me colpisce molto, perché il fatto di ritenere Cristo, diventa, quindi Dio diventato carne, diventato uomo, diventato creazione, qualcosa che tu puoi toccare, no? Lì, uh-huh, e ha poi santificato tutta la creazione, ti aiuta a comprendere come in questo foglio di carta che io ho davanti a me c'è l'onnipervadenza del sacro, c'è qualcosa di sacro anche questo, no? Beh, ma certo, o forse è certo una visione troppo romantica la mia. No, no, non è romantica e non è nemmeno panteista, perché la presenza di Dio in tutta la creazione è anche comunque ricordata nell'ultima enciclica del Papa, è sostenuta non quindi come una confusione di Dio nella creazione, ma è che il creatore è presente ovunque, che quindi poi... è chiaro che da un certo punto di vista è quasi sacrilego violentare la natura per l'interesse. Che poi anche Papa Francesco nell'ultima enciclica ha parlato molto di rispetto alla natura, al mondo tutto, cioè rispetto per la natura, dice, comprende perché tutto. Il Vangelo non è normativo, non è che dà delle norme. L'unica cosa che, in cui dà una norma, è la legge dell'amore. Quindi nell'ottica della legge dell'amore noi possiamo scoprire volta per volta come realizzare un amore infinito, e più si espande, più esseri comprende, più è simile all'amore divino. Ma fantastico. Bellissimo. Grazie Guido Alberto. Deve essere un amore omnicomprensivo. Ma grazie, guarda, Guido Alberto. Io ti Bormolini farei una telefonata al giorno minimo, perché te ne farei di più, perché mi fa star bene. Voglio ricordarvi padre Guido Alberto Bormolini, I vegetariani nelle tradizioni spirituali, edito da Il Leone Verde, e I santi e gli animali, edito dalla libreria editrice fiorentina. Grazie Guido Alberto. Grazie a voi. A presto. Grazie mille. Un bacione grande. A tra poco. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Ho visto che mi guardavi con degli occhi sornioni, le orecchie basse e la coda che scodinzolava, eh? Eh beh, per forza, non possiamo rivelare il motivo, ma... Riveliamo, perché c'ho le parigine. Chissà cosa sono le parigine? Facciamo un quiz, scriveteci su chiedimi vabbè, se sono insomma, felice @24.it. Diciamo che la Celentano si è appena alzata la calzetta, no? Si può dire così. Le parigine. Vabbè, non perdiamo il focus. Allora, stiamo parlando di cani. Stiamo parlando di gioia. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, abbiamo appena sentito il padre Guidalberto Bormolini che ci ha detto attenzione cristiani, che non è detto, anzi non è vero, cioè quasi devi fare il contrario, non devi ammazzare l'agnello. Anche no, perché l'agnello sarebbe il simbolo di Gesù Cristo che si è sacrificato per noi. Quindi però io sono rimasta molto colpita da un articolo di gente di due settimane fa al massimo. Perché dice così: il Labrador Mae e il suo padroncino indivisibili anche in ospedale. Perché questo bambino si chiama James Isaac e ha 9 anni. Viene dalla Nuova Zelanda, la capitale della Nuova Zelanda, è affetto da autismo. Non parla, evita lo sguardo diretto dei familiari, compresi la mamma e il papà, e indietreggia terrorizzato se qualcuno cerca di toccarlo. Tranne che se c'è con lui Mae, che è un giovane Labrador nero, che è in grado di fargli affrontare difficoltà quotidiane, tipo uscire di casa, stare in mezzo alla gente, andare a scuola con i bambini della sua età. Ma pensa che addirittura qui ci sono delle immagini dove vedi il Labrador che li dorme, quasi lo abbraccia veramente, mentre lui è in ospedale. Che articolo è questo, dove l'hai trovato? Su gente. Perché lui ogni tanto deve andare a fare delle analisi, ovviamente, per farsi controllare, e a volte deve fare l'anestesia, e il Labrador non lo molla mai. Addirittura pensa che quando sono in giro viaggiano sempre legati, connessi, sono collegati da un guinzaglio fisso, perché se il bambino a un certo punto si allontana di scatto, troppo improvvisamente corre per esempio in mezzo a una strada trafficata, il cane Mae si siede, pensa, il cane quando lo vede scappare via di corsa, il cane si siede, sta lì e non si muove di un millimetro, in modo che... Grandioso. Ma tu pensa verso i cani quanto ancora siamo in debito. Però voglio dire una cosa che è importantissima. Attenzione, perché purtroppo sento molto spesso, troppo spesso, psicologi, psicoterapeuti, medici, che di fronte a autismo o di fronte anche ad altre problematiche, no, dei nostri fanciulli, dicono ai genitori: adottate un cane. Ah no, così fate pet therapy, adottate un ma cane. Ma no, non è così. Non è così. È una cosa di cui bisogna stare molto, molto, molto attenti, perché noi educatori cinofili spesso ci troviamo ad intervenire in situazioni che sono già drammatiche di per sé. Mi ricordo un bambino autistico di Roma. Ha adottato il cane consigliato dal terapeuta, adesso non mi ricordo se era il medico o il terapeuta. Quello che è successo è che il cane ha cominciato a dare problemi, perché anche il cane aveva bisogno, era un cane che non era adatto a quel tipo di stile di vita. Sì, perché poi il terapeuta non ti dice anche quale cane, magari volendo, più adatto. Adottate un cane, no? Quindi ovviamente i genitori pensano: vabbè, come prendere un analgesico? Adottiamo il cane. Il fatto è che lì il cane ha dato problemi in aggiunta ad una situazione che era già delicata di per sé. Allora c'è questa distinzione: quando io adotto un cane, lo tengo in famiglia, diventa il mio cane, e io dovessi avere il mio bambino, come in questo caso può essere Isaac, questa non è pet therapy, questa è pet ownership. Anche che questo sarebbe? È pet ownership, è brutto tradotto in italiano, perché è proprietà, no? Però il cane diventa parte della famiglia. Ora, è vero che può avere anche un effetto terapeutico, ma questa cosa deve seguire delle linee guida molto precise, quindi devi essere seguito comunque da un professionista. E comunque non bisogna dimenticarsi che quel cane poi è parte della famiglia. Certo. Quindi avrà anche lui i suoi bisogni, deve essere portato fuori. Queste persone si devono assumere la responsabilità di un'altra vita, che è di questo cane. Se hanno tempo, voglia e tutte le condizioni perché possano fare questa cosa, ben accetta questa cosa qui. Altrimenti devono fare pet therapy, che è un'altra cosa. Pet therapy che cosa vuol dire? In un ambiente fatto, costruito appositamente, viene invitato un cane con il suo operatore, c'è un'equipe di persone, di professionisti che segue questa e monitora questa attività, e vengono fatte delle attività particolari. Finita la sessione, il cane torna a casa sua e non resta con il bambino, torna con il suo operatore. È molto bene, diverso. Bravo, perché nell'idea comune c'è il fatto che tu per un cane te lo porti, sì, a casa, esatto, e quella è pet therapy, allora, a prescindere. Bravissima, perché questa, la regola è questa: non è il cane a fare bene, è la relazione che tu riesci ad instaurare con lui. Quindi in una situazione così delicata tu devi farti assistere da un esperto in pet therapy. Assolutamente. Quindi mi raccomando, medici, psicologi, insegnanti, tutti, che siete in ascolto, evitate di dare il consiglio prendi un cane, perché purtroppo a volte questa mettere assieme così senza a caso, invece di migliorare la situazione, sì, la peggiora grandemente. Bene, grazie. Allora adesso invece volevamo rispondere, siccome cerchiamo magari anche in ritardo di rispondere alle vostre mail, mi aveva colpito una mail dove sicuramente il dottor Vaira ci può dare delle risposte nevrotiche. Scemo. Comunque, da tanto mi viene da ridere, sai come parte la mail? Come? Meravigliosi Angelo e Romina. Ah, ma certo, tu sei Romina Power. Certo. Comunque a me fa molto ridere. Un paio di volte al mese sono in giro per lavoro e costretta a lasciare i miei due cani in una pensione. Mm-hmm. Mi chiedo spesso quanto ne possano soffrire, ma dal loro comportamento non riesco a capirlo. Nell'ultima occasione ho poi dovuto chiedere a un dog sitter di andare a riprendere i cani per mio conto, e anche in questo caso mi chiedo: cosa possono aver provato ad essere presi e trasportati in auto da uno sconosciuto? Che ne dite? Allora, Ramona, tu che sei in ascolto, ogni cane ha sé. Questa è una cosa che io sottolineo sempre, no? Quindi ci sono dei cani che accusano la pensione in modo piuttosto difficile, e quindi per esempio diventano inappetenti e non mangiano e via dicendo, mentre dei cani che, ok, sto lontano da casa, magari non me la passo neanche benissimo, però tutto sommato questo mi rende un cane più adattabile alla fine, anzi sviluppo anche resilienza. Io mi ricordo per esempio quando ho fatto il, ti ricordi, per Sky cambio cane, sì, per Fox, sì. Alcuni miei detrattori si sono proprio impuntati su questo, dicendo: ma come? Ma tu allontani un cane dalla sua famiglia e questo sarebbe relazione? Ma cosa, sì, dici? Ti dirò, allora, che all'epoca non ti conoscevo anch'io, ho detto: ma che cacchio fa, figurati se io do il mio cane, ma infatti la mia famiglia, idea che io ho proposto a Fox, chiamarlo cambio cuccia, perché il punto è che era il cane che se ne andava via di casa perché ne aveva scatole piene, non che i proprietari che cambiavano il cane. Certo. Comunque lì quello che succedeva, che cos'era? Che il cane si prendeva una settimana di vacanze in una famiglia che però questa volta rispettava i suoi bisogni. Naturalmente i cani venivano selezionati, perché non tutti i cani possono fare questo, e qui mi ricollego a Ramona, cioè se il cane è vissuto con una relazione che ha stabilito una base sicura con i proprietari, che sono una base sicura per il cane è un cane sicuro, cioè magari lontano dalla famiglia si adatta facilmente, non è che soffre, soprattutto se si trova poi una famiglia, così come è successo, no? Io mi ricordo, certo, di un Labrador con i proprietari, non tornava a richiamo, non voleva tornare dai proprietari, con la famiglia, con l'altra famiglia invece, che ha rispettato tutti i suoi bisogni e tutte le cose che io gli dicevo, era attaccato a loro, era dire felicissimo, no? Quindi i cani si adattano facilmente se hanno avuto questa relazione primaria con la mamma e poi con la famiglia, che si chiama legame di attaccamento sicuro. Diventano dei cani che si muovono bene nel mondo. Quando li lasci in pensione, se la pensione è una pensione adeguata, quindi non è una, sì, di quelli dove vengono trattati male, è una bella cosa. Le pensioni che io preferisco sono quelle che tengono i cani in casa. Cioè è il famoso dog sitter che si porta il cane a casa, sì, oppure infatti, che si trasferisce a casa quelle tua, per quella, piuttosto che quella nei box. Che ora, no? Ce ne sono tanti, ragazzi, ce ne sono tanti e fidati, veramente. Ecco, quindi questa è quella che io preferisco. Però bisogna anche dire che ci sono dei cani che magari possono accusare un pochino di più il colpo, perché magari hanno una relazione di tipo insicuro, per esempio. Cioè, lontano dal mio proprietario io non mi trovo bene, riesco a decifrare il mondo soltanto in presenza tua, e allora qui devo fare un lavoro prima, ed è meglio evitare la pensione per quanto possibile, per capire. Ma lei come fa a capire? Perché lei dice che non riesce a capire i segnali dei suoi cani. Appunto, allora per questo si deve rivolgere ad un educatore. Quindi i segnali dei cani possono essere segnali di stress, il cane si porta a casa dello stress. Naturalmente anche il cane bravo è stressato, no? Però se vedi che c'è un cambiamento morale, purtroppo le cose non vanno bene. Abbiamo parlato del linguaggio del cane tante volte, quindi questo ci può aiutare. La cosa migliore è rivolgersi a un educatore cinofilo che conosca quei cani e in base a loro ti dica se loro stanno bene oppure no. Bene, salutiamo Ramona, grazie della tua mail. Scriveteci, chiedimi se sono felice, @radio24.it. Buona domenica a tutti e alla prossima.